la piazza libera, Miccione doveva essere l'erede, ma era fottutamente muto e non diceva nulla. Copacabana, puttana Eva, con le estorsioni dovevamo iniziare a farci dare contanti dagli ambulanti, dai marocchini, o allo stadio con i parcheggiatori abusivi. Erano due le vie, o aprire spaccio alle piazze, al fumo e alla coca, o fai le estorsioni col ferro dalla loro bocca. Questa è la convinzione di Copacabana, la sua via. Noi dovevamo stare uniti, fare le cose assieme, metterci insieme i soldi vinti in questa guerra di quartiere. La ganja in Nando girava, l'odore della marijuana stava sempre il migliore, li metteva in uno stato di grazia, in fulgore. La ganja intanto girava, l'odore della marijuana stava sempre il migliore, li metteva in uno stadio di grazia, in un fulgore, in uno stato di grazia, uno fulgore. Dendino agitava molti, anzi un pacco di soldi alla moda di Lefty. Sapete come li ho fatti questi? Ho messo su una paranzina con i ragazzetti e con gli zingari ai parchetti. Loro fanno la loro danza, infastidiscono madri, bambini e ragazzi, e noi storciamo loro 10-20 pezzi per mandarli via. Sembrava la neuro, madri che urlavano e lo scherzetto delle borse. Facimmo finta di rubarle e le ridiamo sempre per le stesse somme di soldi, dando le donne, i parchetti sono pieni di soldi, le donne, i parchetti sono pieni. La ganja intanto girava, l'odore della marijuana stava sempre migliore, li metteva in uno stato di grazia, in fulgore. La ganja intanto girava, l'odore della marijuana stava sempre migliore, li metteva in uno stato di grazia, in un fulgore. Dentino agitò molti, anzi un pacco di soldi alla moda di Lefty. Sapete come li ho fatti questi? Ho messo su una paranzina coi ragazzetti e con gli zingari e i parchetti. Loro fanno la loro danza, infastidiscono madre, bambini e ragazzi, e noi storciamo loro 10-20 pezzi per mandarli via. Sembrava la neuro, madri che urlavano e lo scherzetto delle borse. Facimmo finta di rubarle e le ridiamo sempre per le stesse somme di soldi. Le donne sono piene di soldi, ai pacchetti le donne sono piene, sono piene. La ganja intanto girava, l'odore della mamma marijuana stava sempre migliore, li metteva in uno stato di grazia, in un fulgore. La ganja intanto girava, l'odore della mamma marijuana stava sempre migliore, li metteva in uno stato di grazia, in un fulgore. In uno stato di grazia, uno fulgore.